Allora, Giorgio Pigatti, le generazioni al confronto. Qua si possono conservare i posti. Ti passo la bandiera. Ti vado a diritto là. Se si registra, non lo so se abbiano. Avete interesse di destra? Sì, sì, sì. Rilascio il testo, mi mando il testo. La registrazione è uguale, io là è la stessa cosa. Allora, perché. Vabbè. Prima cosa che vorrei ringraziare di Bellino. Grazie, sono lieto di aver avuto almeno un lettore, visto che per ragioni anche di tipo editoriale e amministrativo con l'università, io stesso non ho nessuna copia, mi scuso di aver portato. Nessuno dei presenti. Detto questo, vengo al mezzo. Rispetto al titolo che mi era, che vedo che forse ho promesso io stesso, diciamo che cosa. Così ho cambiato, come spesso capita. Ho cambiato anche perché ho lasciato con la chiusura del libro, che sarà ormai che andiamo nel mezzo fa, questo tipo di argomenti e ero abbastanza. Non mi occupo, diciamo, professionalmente di professione di ingegneri, quindi era rimasto un argomento un filo dimenticato. La teoria che avevo espresso, il dubbio, insomma, essere presente o meno all'incontro. Poi, stimolato dall'impegno preso, mi sono messo a pensare, per trovare un filo, per differenziare poi in qualche misura le interazioni di oggi dalle cose che ho scritto nel capitolo di quell'epoca, che poi ho visto che veniva anche prese le cose che forse qualcun altro ha letto, comunque uno può leggere andando lì. E nello stesso tempo ho perso una nuova ricerca nuova, ulteriore rispetto a quella che, come dicevo, sto facendo altro. E mentre pensavo come conciliare queste esigenze indifferenziabili con l'esigenza comunque di chi ha parlato, mi continuava a venire in mente il titolo di un libro che in realtà nulla c'entra con l'argomento, scritto da Ciminello Aldo, che si chiama Uomini del Novecento, pubblicato da Adelphi. Allora, questo titolo, questo uomini, questa bibliografia mi ha spinto a provare la strada di ripercorrere un po' l'evoluzione che ho cercato di narrare nel capitolo finalmente sugli ingegneri, non attraverso le vicende delle istituzioni. È stato bene perché in qualche modo lei poi evidentemente ha ripercorsa una prima relazione, ma attraverso la carriera, la vita e alcune testimonianze di alcuni pochi ingegneri scelti naturalmente con parzialità per dimostrare la tesi che poi verrò dimostrando, ma scelti anche con il criterio di prendere uomini medi, cioè non grandi protagonisti. Penso che sono nomi che dovrà conoscere solo se ti accorgi perché ha lavorato sulle arti in Lombardia, quindi questi nomi forse per gli altri, suppongo, magari se mi sbaglio, sono cose che sono noti, ma sarò contento per loro. Ecco, questo è la struttura. Allora il titolo, giusto per orientare, dovrebbe essere, anziché quello che neanche ricordo, che era segnato lì, Storie di ingegneri, tra età del ricordo e restaurazione. Dico tra età del ricordo perché in realtà parte un po' prima e va un po' dopo. D'altronde io non riesco mai a collocarmi precisamente da qualche parte. Ecco, quindi la traduzione degli ingegneri. Ecco, il primo ingegnere da cui inizio a prendere via il discorso è Giuseppe Maria Roberti, che sono appunto sconosciuto qui, francamente. Ha ragione che tengo. Però è un ingegnere importante, importante non fosse altro, con riferimento alla professione di Lombardia, perché è l'ultimo rappresentante di una dinastia di ingegneri al servizio della Camera da 5 o 7 generazioni. Quindi diciamo una tradizione funzionale che si è venuta costruendo sul servizio camerale, poi vi dirò cosa significava il servizio camerale. I dati della sua biografia, in mio possesso, sono estremamente limitati, non si sa granché della sua formazione, se non che evidentemente ovviamente era venuta l'ordine del padre che seguiva sul lavoro, secondo la pratica consueta, ma e qui c'è un elemento sicuramente differente da Giuseppe Maria, da Bernardo Maria che era parte da tutti i vari Maria che riprodono e si ripercorrono. Su questa tradizione di presa diretta di dato con la professione per il padre si aggiunge la presenza di un corso di matematica e di teologia nelle scuole di Santa Santa, un elemento probabilmente nuovo, comunque non compariva in analoghe attestazioni di ingegneri del tempo. Il tempo, nasce nel 1729, muore nel 1780, inizia il servizio alla Camera nel 1759, cioè la metà del secolo. Ecco, anche la sua vita professionale si divide da questo momento in due filoni. C'è un versante pubblico e invece vi è poi il rapporto con la clientela privata. La parte di carriera che conosco io, ma vedo che anche quella in buona sostanza uscibile, dal momento che gli archivi durati di linea sono andati distrutti, è quella che riguarda il versante pubblico. Nella sua veste di ufficiale del magistrato Fernando Robecco, così come l'altro collega che erano due in linea di camerale, doveva essenzialmente predisporre ogni anno la nota dei ripari da eseguire nei canali che succavano a Milanese, sui Navigli e la Munzia. Adesso io cercherò di evitare al massimo i riferimenti geografici locali, ma per volte è inevitabile. Penso che nulla aggiunga nulla ad hoc nella due zone, ma se mai alcuni lo chiedete. Rilevava quindi i lavori da fare, lì in funzione del canale sempre venivano votati, quindi l'ingegnere correva a cavallo di prendere di canale, ispezionava i lavori, verificava le bocche di prelievo dell'acqua per le regazioni che erano al cuore del sistema fossero i limiti tollerabili del fusilismo, di regolarità non si poteva mai parlare, ordinava e entrava in trattativa con i privati sui lavori da fare, controllava l'appaltatore, teneva le regole degli appalti, insomma in qualche modo sovrintendeva alla gestione del canale. E questo è il primo, questa è la parte diciamo di routine del lavoro dell'ingegnere camerale del milanese. Poi diciamo veniva usato, mandato in missione dal centro quando sorgevano conflitti nella lontana periferia, conflitti tra gli utenti di una roggia che richiedessero un'ampliazione superiore, quindi ci si rivolgeva a Milano, oppure nel caso di lavori che prevedevano il finanziamento, il concorso del finanziamento da parte delle casse centrali. E quindi il magistrato e l'ingegnere spesso in missione e attraverso la rivolta per puntazione di uffici di trasferimento è possibile anche seguirlo sul territorio, che se voglia farsi un'idea nel suo caso come di altri, un po' dei movimenti, del tipo di interventi che facevano. Ecco, in queste richieste di rimborso, che poi sostanzialmente erano queste, le note di rendiconto, dall'altra rendicontava con progetti per in questo carteggio di amministrativo, le note di rimborso. Gli ingegneri lamentavano spesso, e Orbecco tra gli altri, l'inadeguatezza delle sistemazioni in cui si trovava a dover poi trascorrere in queste campagne umide e fredde il servizio, e il fatto che non erano sistemazioni adatte al rango di un funzionario. Ecco, Orbecco sentiva funzionario solo in queste occasioni, cioè solo quando doveva chiedere soldi alla Camera. Per il resto non si sentiva affatto tale e non si comportava come tale. La sua carriera era una carriera onorata, ma in nulla diverso, a mio parere, cioè più fermo, anche mi sono fatto un'idea, da quella di quanti l'avevano preceduto, sia da famiglia che altri, nel tipo di incarico. Se non fosse che all'inizio degli anni 70 si trova a vivere un momento di passaggio nella storia degli uffici di amministrazione milanese. Quindi la sua tranquilla esistenza viene investita da un processo che lo riguarda marginalmente, nasce del tutto da di fuori e non poteva essere diversamente dal suo ambito di intervento, ma continuato a coinvolgerlo negli ultimi 8 anni che gli è rimasto da vivere. Allora, vorrei riuscire a diventare un po' narrativo e posso anche accelerare da questo punto di vista. Nel 72 arriva un ordine, diciamo, dall'alto che chiede, insomma, un ordine non chiede, dispone che gli ingegneri camerali, anziché continuare come sempre fatto ad esitare nella loro casa, si porti in un ufficio, trasferiscono negli uffici gli archivi, le proprie carte, i propri disegni e siano tenuti a una presenza giornaliera. Ecco, siamo di fronte a un elemento nuovo, noto sul piano generale, meno nel dettaglio biografico, nel caso in particolare, che provoca forte risentimento dell'ingegnere europeo. E quindi fa un contromemoriale, di cui non mi dilungo, ma perché in qualche modo però mi interessa, perché fa emergere più concretamente quali fossero le modalità di esercizio della sua professione. Allora, innanzitutto, una visione contrattuale del rapporto con l'amministrazione, Roberto basa la sua memoria difensiva nel senso che respinge le pretese dell'amministrazione, sul nesso tra l'attività del soldo, del percepito e la libertà di esercizio della professione. Diceva Roberto, ha un altro professione. Detto questo, Roberto anche fa presente come qui insiste sulla peculiarità della professione di ingegnere, questa professione richiedesse grande disponibilità al movimento. E Roberto respinge la segnalazione che l'amministrazione fa con l'ingegnere del censo, respinge con maggior determinazione la segnalazione con i ragionieri. Quello che consiste la professione per cui sia giusto la richiesta, la presenza, la condizione dell'ufficio, l'ingegnere invece è una professione che richiede libertà di movimento. Richiede di andare sul luogo per fare le opportune notazioni dei rilievi, di scandagli, per interrogare i pratici, gli esperti, i pescatori, la gente del luogo. E poi, e questo è l'altro aspetto che mi pare interessante, la professione di ingegnere richiede l'operosa guida dello studio, dice sempre Roberto. E infatti, nel chiuso delle pareti domestiche, con mente quieta e lontana dai rumori, qui l'amministrazione gli risponde gli dà una stanza senza finestre, sta tranquillo. Visto che vuoi anche dire, però è in questa direzione e solo in questa che l'ingegnere poteva tradurre in progetto ciò che era appreso sui luoghi. Nello studio dell'ingegnere aveva anche modo di consultare le carte sue e quelle dei colleghi, perché gli archivi venivano tenuti, non avrebbero dovuto essere passati all'archivio dei colleghi dell'ingegnere, ma in realtà poi rimanevano presso le famiglie, soprattutto nel caso di dinastie familiari, come spesso accadeva. Portando a casa Roberto, oltre ad avere libri e trattati su cui si era formato, poteva valersi della collaborazione di alcuni giorni di studio per le copie delle carte, delle perizie e per le risposte. Come lui aveva preso il mestiere dal padre, altri loro facevano presso di lui il loro apprendistato, diretta militanza, coadiuvando nella professione. Insomma, come dicevo, benché erede di una dinastia di ingegneri del servizio della Camera, Roberto non era un funzionario, non si sentiva tale. E anche per questo, malgrado la stretta analogia delle mansioni tra Robecco e gli ingegneri di Arco e Strade, per quello che riguardava l'amministrazione dei canali della Lombardia, naturalmente, che sono una parte piccola, cioè gli ingegneri delle strade, dicevo, malgrado questa analogia di mansioni, non possiamo considerarlo un lontano antenato degli ingegneri di cui invece si parlava nella tua relazione, e per un cenno, conoscendo anche lui. Ecco, nella sua visione, una visione con gli occhi rivolti al passato, l'ingegnere camerale, cioè l'ingegnere al servizio della Camera, che era in effetti anche membro del collegio degli ingegneri, tra l'altro, cioè aveva avuto piedi in quel, in realtà diverse, era esattamente l'ingegnere. un mediatore tra la grande proprietà mondiale che già l'ha per irrigare e la Camera che avrebbe dovuto dall'acqua ricavare una risorsa. E quando fossero condizionanti dai rapporti con la clientela privata nell'esercizio della loro funzione, l'aveva sperimentato sulla sua pelle dolorosamente 2 secoli prima, già come soldati, e per aver sposato con troppo rigore le ragioni della Camera nel tentativo di censire e costringere i privati a pagare il dovuto per l'acqua, aveva perso non solo tutti i clienti del suo studio, se la cosa va per chiudere, ma ha legittimato dei colleghi e infine ha abbandonato la città. Ecco, ricordo per inciso che, come ha mostrato una bambina, proprio questa funzione di tutela degli interessi della proprietà fondiaria, gli ingegneri milanesi dovevano gran parte del loro prestigio. Dovevano anche quella determinazione che li accompagna fino all'età napoleonica di precludere l'esercizio di determinate mansioni agli agrimensori, spesso di origini rurali e per questo considerati più vicini agli interessi dei cittadini oggi in conflitto con una crisi di proprietà. Ecco, il documento di cui mi sono servito per introdurre il tema cade, come dicevo, in un momento di svolta e ne riflette i contenuti. Sospinto dalle esigenze fiscali del valore del territorio, prima ricordate, che implicavano anche una diversa configurazione dei rapporti tra parte centrale e potere cittadini, lo Stato avverte la necessità, la spinta a indirizzarsi alla creazione di una burocrazia tecnica anche nel piccolo Lombardia. Da qui l'uso contro l'esclusivismo rituale dei vecchi assetti corporativi e dei colleghi. Ecco, ometto la parte sui collegi e provo a sintetizzare il senso di questo intervento rispetto agli ingegneri, al problema degli ingegneri. Con riferimento alla questione degli ingegneri, mi pare di poter dire che tra 1771 e 1775, con gli ordini che riformano il grado di esercizio della professione, con l'obbligo nel 1786 di un corso triennale di istruzione per l'università, molto veloce perché sono cose che sono state già scritte, quindi è inutile che adesso non praticamente li chiami, dico, in questo percorso non esente da arretramenti, da momentanei ripiegamenti, però complessivamente lo Stato era riuscito a scardinare le clausole che avevano preceduto sino ad allora alla formazione e al reclutamento dei tecnici, e vi è riuscito in quanto contestualmente aveva posto le premesse per il superamento degli assetti della società in cui quello tipo di reclutamento, rideformazione e espressione. Aveva posto appunto però le premesse, perché aveva ridefinito la regola, ma non era ancora però arrivato a creare, come era in epoca francese, invece una, sì, come dire, un mercato del lavoro, una parola più forte, ma insomma, per intenderci con le pene, la sede informale. Però sia, lo Stato non offriva ancora occasioni e sbocchi professionali agli ingegneri di cui aveva contribuito a iniziare a disegnare il processo formativo. Forbice tra sapere e amministrazione si sarebbe chiusa, come ricordato, nel 6, tra il 6 e l'8, come da dire, con la creazione del corpo di acqua statale, che rappresentò un tornante decisivo, un punto di non ritorno per quello che riguarda le vicende di Fabiano. Ecco, mi pare che un dato numerico nella sua banalità aiuti a cogliere immediatamente la differenza tra la situazione di fine secolo e quella del primo decennio dell'Ottocento. Guardando sempre gli ingegneri pubblici, che in qualche modo rimane il proprio filone del ragionamento. Ecco, nel 96, l'arrivo dei francesi, gli ingegneri delle dirette dipendenze della Camera, di quella che attraverso vari mutamenti di nome e anche di funzioni proprio stiamo funzionando prima della Camera, erano sempre due, erano ancora i due geni camerali. In questo caso erano Gaetano Belotti e Ferrante Giussani, uomini per mentalità, formazione e anche probabilmente concreto modalità di esercizio della carica, ancora una volta fini a chi li aveva preceduti, cioè erano ancora uomini del Settecento. Da Brunucci, cioè. Sì, aspetta. Sì. La norma per la norma alla lunga la vince. Faticosamente vince, ancora si va a sentire. No, no. E queste due poi si potrebbero aggiungere, che in qualche modo avevano riferimento sempre all'ambito pubblico, gli ingegneri che erano in servizio o delle municipalità, nel caso di Tremonito del Maggiore e negli uffici dell'amministrazione delle acque, che in qualche modo rientravano in questa famiglia. Ma insomma anche, e lo stesso potrei dire per quelle del Mantovano e delle Tigani, che erano forme che stavano vivendo una trasformazione tra forme con sortili private a solo poi con l'età naturalmente sarebbero diventati servizi pubblici, insomma facevano un po' parte di quest'area. In tutto però non si va oltre la decina di ingegneri. Non si parla, cioè si è parlato ma non si è stato obbligato a parlare di creare un corpo di ingegneri nazionale, c'è una proposta che è rimasta tale. Ecco, se guardiamo questo numero e lo confrontiamo con quanto accade dopo, c'è immediatamente il senso della svolta rappresentata dall'istituzione del 6 del corpo di magistrati. Nel momento di massima espansione del regno, gli ingegneri saranno oltre 200, tra aspiranti e sedenti nella direzione generale. Se anche restringiamo, perché il confronto è più significativo, il numero degli ingegneri che lavorano nei dipartimenti che componevano il vecchio Stato di Milano, quindi solo i dipartimenti dell'Area, del Verona, della Tupola, del Mincio, gli ingegneri sono 38 contro i meno di 10 che erano prima, quindi uno scarto notevole in ambiti. Ecco, dicevo che altrove mi sono ricordato qualche saggio, di contorno mi ero esercitato un po' nel seguire il percorso, i processi di formazione del corpo, i criteri che presiedono al reclutamento, e poi ho solo pensato in uno scritto, altri molti non dimenticati. Qui, ed era l'assunto di concentrarmi sugli uomini, mi limito a poche rapide annotazioni. La prima sarà un po' più grande di quello che hai detto tu, perché vertevo sulla composizione, sulle difficoltà incontrati da paradisi a riempire i ranghi del corpo. La difficoltà cioè di avere, di trovare un'offerta elastica di tecnici in grado di rispondere alla crescita della domanda della pubblica amministrazione. Una situazione paradossale se si considera che dal punto di vista della professione, probabilmente, molti di questi ingegneri facevano, questi uomini che adesso si chiamavano ingegneri, facevano le stesse cose che prima facevano uomini che si chiamavano periti, periti d'acqua, agronomi, in cui è molto difficile distinguere quale sia, così a ridosso in questi anni, la differenza. Poi, man mano che il tempo passa, man mano che quindi la riforma della formazione professionale cambia, diventa chiara la distanza tra una formazione che viene dall'università, dal teorico e, come dire, a posteriori arricchita da una militanza, cioè dal tirocinio pratico, e invece una formazione che veniva tutta per via imitativa, come era per molti di questi uomini, cioè direttamente sul lavoro. Ma proprio perché in mezzo c'era stata la legge del 1905 che tu ricordavi, adesso si cercavano persone che chiamassero ingegneri, che avessero problemi. Un corso che adesso è un tirocinio che adesso è una patente. E come per l'esercizio privato fu necessario sanare e abilitare, previa all'aggiornamento di determinati requisiti, quelli che ingegneri non erano per la norma in questo caso, ma lo erano per la pratica, perché sono state trovate intere zone della mia Italia in cui non esistevano più ingegneri, Lo stesso avvenne per riempire gli organici del corpo di acqua strade. Quindi, per un lungo periodo, questo corpo risultò l'amalgama di due figure professionali diverse. Varie figure professionali diverse, ma diciamo più due. Un lato gli ingegneri, che avevano un curriculum di studio regolare, dall'altro figure che derivavano da esperienze professionali più diverse, che venivano messe in qualche modo sanati e regolarizzati. Abbiamo ancora negli anni 20 tradizioni e generazioni di ingegneri contrapposte, uomini addestrati alla meccanica esecuzione, come si diceva, delle operazioni secondo i dettami della pratica, che non si sa perché, sempre cieca, e uomini con una formazione tecnico-formale conseguita attraverso un regolare corso di studi universitari. Così, se andiamo a vedere dentro un ufficio a Mantova, che è uno degli uffici più grossi per ragioni inerenti alla storia idraulica di quel comprensorio, su 12 ingegneri mi pare che ce ne siano 5 che non sarebbero tali tenore del dettato legislativo. Tutti quelli nati, e questi 5 sono tutti casualmente nati, non casualmente nati prima del 1780, le generazioni successive sono invece 7, con diverse esperienze. Queste persone invece precedenti, che sono quelle che poi occupano i vertici del corpo, nel caso dell'ufficio mantovano, la gente che ha studiato scuole private, quando c'è una scuola di idrostatica tenuta da un idraulico locale, Giuseppe Mare, altre vanno qui a Ferrara, mi pare da già ricordato Teodoro Bonatti, che prima della fondazione di questa scuola di idrostatica, che poi ha avuto vicende modeste, insomma, prodava lezioni in casa propria e così via. Ecco, di pari passo col progressivo sanarsi dell'anomalia, e questo così, anomalie nella formazione degli ingegneri di uffici, e col progressivo negli anni ormai tutti gli ingegneri in regola con i requisiti formali richiesti, si assiste dall'altro elemento su cui richiamo l'attenzione, a diffondersi di una crescente insofferenza per i servizi. Il lavoro di ingegnere pubblico negli anni 30, da varie testimonianze, alcune più interpretate, altre chiaramente dichiarato, quelle da interpretare su quelle che si chiamano dalle carte interne, quelle esplicitate, quelle degli scritti di Tatti, ad esempio, che non sono lui, che propongono riforme del servizio, che adesso permetto di ricordare, emerge come vi fossero due elementi di insoddisfazione. Da un lato, il servizio di autostrade, non modificando le stesse funzioni, non sembrava più in grado di garantire gratificazione professionale adeguata agli ingegneri. Dall'altro non garantiva loro neanche una remunerazione pari a quello che loro ritenevano di diritto. Per quanto riguarda il primo aspetto, c'è quello della gratificazione. Si lamentava la fine di una stagione eroica, si lamentava la sostituzione del peso di una macchina burocratica ossessivamente attenta ai controlli degli aspetti minutamente contabili come quella Imperial Regia, ossessionato dall'idea che le carte che andavano e venivano negli uffici si ripetevano, sfinendo gli ingegneri che vedevano continuamente mutati, toccati i loro progetti, e quindi di pari alla crescita dell'autoconsequenza del loro ruolo emerge anche la mancanza del mancato riconoscimento alla fine della individualità del progetto. L'idea che il progetto sia in qualche modo individuale e personale non sia da riferire al corpo come entità astratta, è uno degli elementi che sembra differenziare, cioè che sembra, diciamo, innervare queste lamentele sul decadimento del servizio. L'altro elemento di lamentela è quello relativo agli stipendi. Qui vi è un elemento di tipo oggettivo, nel senso che col cambio di amministrazione ci fu una lieve deportazione degli stipendi che dovevano essere adeguati a quelli in vigore nel resto della monarchia. Ma detto questo, è anche vero che gli ingegneri erano comunque nella fascia alta della piramide retributiva. Allora, come si tratta di dimostrare, come viene nel saggio, il problema non era tanto i livelli assoluti dello stipendio, ma il fatto che dopo 14 ci sono le possibilità di carriera che diminuiscono. Nel 29, ossia per diventare le funzioni del corpo, tutte le posizioni di vertice degli uffici erano ricoperte da uomini entrati in servizio di età napoleonica. Dimenticati che questo uomo sarebbero rimasti ancora per parecchi anni. Tuttavia, l'età napoleonica è assunto subito per essere di rilievo, cioè si stava creando una struttura nuova, era facile far carriera all'interno. Questo era il caso del direttore generale Masetti, degli aggiunti Ferranti e i risparmi di altri nomi. A fronte di queste chiusure verso l'alto della carriera si assisteva invece al rigonfiamento delle fasce peggio retribuite. Il peso percentuale degli ingegneri peggio pagati, cioè quelli di delegazione di seconda classe, come venivano detti, passa dal 6 al 27, dal 19% al 47%, se non ho sbagliato i conti. E peggio ancora andavano le cose per quanti riuscivano ad entrare come aspiranti. Gli aspiranti in realtà avrebbero dovuto essere gli usciti da quella famosa scuola che ricordavi, che doveva crearsi nel 7, la scuola di abitazione interautostrale, che si esaurì nel restaurare il locale a Brera dove avrebbe dovuto ospitare la scuola. E quindi nel corpo non entrava il meglio ingegnere del regno come si proponeva, ma entrarono quelli che ci riuscivano, che erano interessati alla carriera. E poi, appunto, perché la carriera era meno soddisfacente di quanto non fosse stata una presa prima, cominciavano a essere non i meglio, tra virgolette, degli ingegneri, ma quelli che avevano meno occasione di lavoro. Perché altrimenti conveniva fare la carriera privata, che era molto più lucrosa. Infatti, apprendiamo che vari questi ingegneri non erano benestanti, e toccare di un'area dovevano arrangiarsi in vari modi. Chi, come Giovanni Voghera, si illudeva di far soldi compilando monografie sui monumenti di Pavia, che erano le mie parti, almeno i soldi, in questo. Altri, come Giacomo Porro, vendevano legna e qualcos'altro, altri, infine, cedevano alle lusinghe del baltatore. Insomma, è un universo di gente che fa fatica anche perché l'allunato era tutto e questa aspirazione che doveva essere professore tendeva a prolungarsi negli anni, arrivando a 10-12 anni in media di servizio semi-gratuito, perché in realtà venivano poi pagati con il rimborso spese, con le diete, con forme di aiuto più o meno contrattata persona, che in una maniera per una servizio gratuito, perché sennò sicuramente non avrebbero potuto reggere nemmeno legna o cose del genere. Ma nel 29, per dirti sempre a Mantova, gli ordinari, cioè il ingegnere Roland 29, gli aspiranti erano 5. Ecco, mi avvio a chiudere, non ho quasi troppo tempo. Dicendo che a mio parere però le ragioni di insoddisfazione palpabile degli ingegneri non sono riconducibili esclusivamente né all'ossessione della burocrazia e quindi al fatto che c'è questo controllo troppo minuto sulla loro libertà di agire né esclusivamente alla questione salariale, che secondo me dietro a la crisi questa figura di ingegnere di acquestrare, che per molti versi è ancora l'ingegnere di ingegnere camerale qui come mansione, quindi insomma l'ingegnere tradizionale, è il fatto che sta proprio mutando, sta rompendosi, sta allargandosi, sta cambiando il quadro della figura della disciplina dell'ingegnere. E se ho ancora 5 minuti attraverso tre brevi biografie, di tre ingegneri del servizio, cerco di chiarire come per me questo sia il passaggio più importante di questi anni per spiegare l'emergere di queste soddisfazioni, di questo mutato atteggiamento nei confronti dell'opera di ingegneri. Allora, il primo, Galeazzo Frenzi. Questo può essere considerato il prototipo dell'ingegnere funzionale. Alla sua morte, Giulio Sarti, le tracce, che è altro ingegnere lombardo, le tracce sul giornale, ovviamente dell'ingegnere, un breve profilo biografico commemorativo, ritenendo non a torto che richiamare i meriti di Crenti significa essere percorrere la storia di un'istituzione un corpo di altro strano, di cui temeva di vedere presto estinguersi la radice per l'ignoranza di chi non sa portarla. Qui Sarti scrive nel 62, siamo negli anni, io non conosco le vicende analiticamente di questi anni, ma in cui c'è il passaggio, diciamo, tra la direzione della costruzione lombarda e l'incorporamento nel genio. E da questa frase si capisce che la cosa in Lombardia non doveva essere a tutti gradita, come tanti altri aspetti del servizio nel nuovo Stato nazionale. Ecco, Krenzi entra nel servizio della Costa nel 1808, dopo aver percorso per molti della carriera presso un distinto ingegnere lombardo, e non uscirà più dal servizio pubblico. Ecco, questa sottolineatura del fatto che Krenzi ha percorso per molti della carriera presso un ingegnere lombardo serve a Sarti per polemizzare contro l'idea allora corrente in discussione di sostituire il tirocinio pratico del teologico del ciclo con un corso di applicazione. Difendendo e richiamandosi alla vecchia idea, che non vi ho preso perché ho saltato parlando della questione dei colleghi, alla vecchia idea di una professione di ingegnere, fosse una professione molto legata all'aspetto pratico, una professione per quale l'approccio scientifico non fosse sufficiente. Dice, e mi pare utile riportare una bellissima citazione, questa istruzione pratica non può essere sostituita né dalla scienza né dallo studio. Essa è composta di tradizioni che si trasmettono sul luogo, che formano un insieme di tre condizioni essenzialissime all'esercizio della professione. Il Krenzli, di aver acquistato, ne faceva prezioso tesoro, a contrasto di molti ingegneri che, passati immediatamente ai lavori pubblici, non possedevano le condizioni che formano le basi di ingegneria civile. Questo è un tema che dal 700 a agli anni 60 si ritroverà sempre nei vari momenti in cui gli ingegneri parlano del loro lavoro, parlano delle riforme che dietro, ne parlerà Buschetti, ne parleranno anche altri. Ecco, dicevo però che Krenzi, a differenza di altri, è proprio ingegnere funzionario. All'interno del corpo svolse varie mansioni, trovando però poi alla fine la ragione della sua vita, quindi deve essere divertentissimo, nella compilazione annuale dei bilanci del servizio di autostrade per tutto il Lombardo Veneto. Ecco, secondo Sarti, la produzione di questi prospetti, in cui i negozi di spesa erano giustificati e corredati da utilissime osservazioni per l'arte, era la ragione per cui il governo austriaco, pur non essendo ben disposto nei confronti della Lombardia, poi non era avaro nel finanziare le opere. Ma evidentemente questo è solo una nota di colore. Ma è importante notare che Krenzi fa, in questo aspetto amministrativo, così come farà della redazione di una statistica generale dei fiumi, la ragione del suo lavoro. Naturalmente rilevava carta, faceva anche quello che facevano gli altri ingegneri, ma diciamo che in lui lo zelo per l'arte è tutt'uno con quello per il pubblico servizio. La sua vita si svolge nell'ufficio. Ecco, se ricordiamo le reazioni del Rovecchio da cui era partito, vogliamo la distanza, sempre per farci le immagini, tra il vecchio ingegnere camerale e l'ingegnere funzionale. Contemporaneamente però la Krenzi e altri ingegneri del corpo erano meno chiusi, meno identificati, meno paghi del servizio che svolgevano. Una figura tipica, a mio avviso, sempre dell'ingegnere funzionario, quella di Antonio Cantalupi, altro uomo che svolse la sua carriera prevalentemente negli uffici pubblici, rientra negli anni 40 e ne esce ben oltre l'unità, quindi permane un grado grande di nome del corpo. Ecco, anche per lui, come per Krenzli, più che i singoli progetti, nel suo caso la costruzione del ponte dell'Alta Lodi, la direzione del lavoro del carcere di Vittorio Milano, via dicendo, occorre ricordare l'occorosità allo zero, l'occorosità allo zero nel descrivere del lavoro d'ufficio. Ma qui c'è la differenza con Clancy, perché se per Clancy l'orizzonte dell'ufficio era l'orizzonte della vita, per Cantalupi di una generazione successiva non era più possibile vivere la professione in maniera, per così dire, autoreferenziale. Da qui bisogna intervenire nel dibattito sulla riforma degli studi, di collaborare con giornali e riviste, di polemizzare con i colleghi sulle pagine del Politecnico, dell'ingegnere architetto agronomo, ma soprattutto, in accordo al suo spirito pratico, la scelta di riunire in manuale puntuali tutti gli elementi legislativi riferibili alla professione da lui esercitata. Cominciare dal suo fortunato manuale di 1945, che però con una rapida diffusione e venne, la cui prima edizione venne sottoscritta da ben 650 ingegneri, ovvero sia quasi da tutti gli ingegneri residenti a Milano. Di ieri in Lombardia si aggirava per un migliaio, più o meno in questo tempo. Ma una rapida bibliografia sta ai vari manuali di Cantalupi, bibliografia impegnata di spirito positivo, certamente poco attivante per chi non sia cultore di tale difficile, dà a mio parere conto dell'evoluzione della professione dell'ingegnere in questi decenni. La matrice dell'ingegnere lombarda, come ricordava Sarti a proposito di Crenzi, di cui parlavo prima, era agraria. Il controllo della spesa delle acque, la redazione di stime e bilanci di consegna erano forse i momenti centrali della professione, che aveva rappresentato, continuava a rappresentare, una sorta di decisivo supporto tecnico esterno alla conduzione aziendale vera e propria. Qui Tania non ha letto tutti su quello che dice, ma le stesse cose le si trovano in cantoni ed erano in qualche modo ricorrenti in operatore tecnico. Cantalupi vive invece una stagione contrassegnata dalla moltiplicarsi degli ambiti di pertinenza dell'ingegnere civile. Se nel 45 era stato ancora possibile raccogliere l'unico volume di tutte le discipline utili al professionista, ora avvertiva, in questo degli anni, l'evidenza di dare le stampe in volumi separati, un trattato di architettura stradale, un trattato di un'architettura di messura, un trattato elementare di costruzione delle strade ferrate, e poi ancora un volume sulle norme pratiche per la costruzione dei tramvai, un volume sulla costruzione dei mulini da mascia, uno sulle fognature, e via dicendo. La professione si è rotta, l'ingegnere di autostrade non è più in grado di controllare tutti questi aspetti. Chiudo ricordando un ultimo ingegnere, che forse meglio ancora di Cantalupi riflette le tensioni che cominciavano a agitare il mondo delle professioni filimbari, Carlo Barrelli, 1677-1834. La traduzione può risultare strana, l'affermazione che questo ingegnere, nato nel 1677, sia in qualche modo esemplificativo di tensioni che si sviluppano proprio a partire dagli anni in cui, se vogliamo fare il morto, cioè dalla seconda metà degli anni 30. Da un certo punto di vista Parea è certamente uno degli ultimi rappresentanti della grande tradizione idraulica lombarda. Non a caso il suo nome resta legato alla realizzazione dell'ultimo naviglio, quello di Pavia, che non ha, la cui costruzione inizia un progetto di tale primi dell'Ottocento, mi pare nel 1805 Napoleone ordina la costruzione di tre navigli, canali navigabili per tutto di Pavia. L'opera viene progettata dal matematico Brunacci in polemica con De Pronico, con un corso di altri istituti che sono la massima conoscitrice del problema. Nel 1809 però Carlo Parea ne prende in mano la direzione e conduce, diciamo, a termine il lavoro. Parea è quindi grande ingegnere idraulico, naviglio di Pavia, ma non solo, perché lega il suo nome ad altri importanti canali di navigazione realizzati per conto di privati intraprenditori come l'avvocato Marocco, un uomo che gioca, perde gran parte della sua fortuna nel sogno di fare di un canale di navigazione un'occasione di profitto, e al servizio di case patrizie come Borromeo, il ben gioioso. Ciò che differenza Borromeo e Bergioioso da Marocco sono che Bergioioso e Borromeo praticavano in primo luogo le proprie terre e poi cedevano l'acqua sovrabbondante ad altri, mentre Marocco terra non ne aveva sperato di fare dell'acqua un affare, indipendentemente dal fatto che non avesse terre. Anche anche la doppia veste di ingegnere al servizio di autostrade insieme a ingegnere al servizio di privati, cioè l'ingegnere funzionario a tempo parziale, per così dire, è un altro elemento che di Parea accentua l'aspetto del voto in passato rispetto agli ingegneri funzionari di cui parlavo prima. E proprio questa non completa appartenenza al corpo forse gli fermò la carriera a un passo da diventare direttore generale, anche perché oltre ad essere considerato abile aveva sospettato di avere qualche corpo collusivo con gli appaltatori. E tuttavia viene lui un elemento di dubbia modernità che più dei precedenti ne fa un precursore dell'ingegnere di tipo nuovo che sarebbe formato in Lombardia dopo l'unità in seguito alla creazione dell'Istituto Tecnico Superiore. Alberto Quadra Curzio, che è un docente di economia politica non alieno delle incursioni in campo storico, ha chiamato questi ultimi, per usciti dall'Istituto Tecnico Superiore, ingegneri economisti. Anche perché è un costruttore. Cosa? Anche perché Alberto Quadra Curzio è un costruttore. Ah, io. Sono grandi appaltatori. Cioè, no, se non dire una cosa strana. Allora ci mette sulla linea. Sì. E chiama ingegnere economisti, ovvero tecnologico imprenditore, intendendo con questo richiamare la capacità di questi ingegneri lombardi di individuare nuove tecnologie, secondo la logica dell'ingegnere innovatore, ma di renderle economicamente operative, secondo la logica dell'imprenditore innovatore. È una definizione da cui si può dissentire, ma che almeno si coglie le parti edificanti di quel gruppo di uomini che, stimolato da Giuseppe Colombo, darà poi vita ad alcune delle principali iniziative industriali di questo paese. È certamente una definizione che in realtà a Parea può apparire suonata. Eppure mi sembra che anche in questo caso c'entri l'obiettivo, o quantomeno possa tornarci utile. Parea, che era a sua volta intraprenditore di opere di pubblica utilità e che anche lui, come Marocco, comprometterà il suo patrimonio nel lavoro di navigazione tutta volta delle deposte, anziché lo scavo di un nuovo canale. Parea prosegue l'attività del padre, ma ascoltato il suo fallimento si ritira. Su un fronte ben esposto, anziché giocare in proprio, presta le proprie competenze, hai già ricordato in Marocco, dicendo, ma non dimentica però l'amore per il rischio imprenditoriale. E allora, dopo essersi fatto partire nel 18 della navigazione a vapore su Poca per l'ufficio, lo sappiamo promotore di una società per fuori sui laghi. Poi si associa all'impresa che vedo Cipoli, a una società di azionisti per scandagliare terreni onde rinvenire il carbon costo, a un'impresa con lo scavo dei frutti artesiani, poi ancora un promotore di illuminazione a gas, delle raffinerie e dietro ad alcune manifatture degli anni 40 sotto a Milano. Imprese tutte senza ritorno economico probabilmente, spesso velleitarie, ma indicative di quella propensione a volte della tecnica di applicazione che costituisce uno dei tratti caratterizzanti dell'ingegnere moderno, che non è più e già al tempo di Parea non poteva più essere solo ingegnere di autostrade. Se la morte non avesse colto nel 34, nel pieno dell'attività della carriera, l'avremmo certamente visto in prima fila nell'avventura ferroviaria, come non Parea. Ecco, quindi, chiudendo, dentro questa rapida carrellata impressionistica delle licenze di quattro ingegneri, tutto sommato, mi sembra significativi, almeno all'interno del corpo degli ingegneri, diciamo, pubblici. Lombardi, spero che siano rendute chiare, ma concretamente, i motivi di più profonda insoddisfazione che conducevano non erano solo relativi a guadagno, certo, quelli che lavoravano per il comitato privato, quelli che lavoravano per l'agricoltura, anziché le 3 per 1500 lire al mese, che calavano dal servizio pubblico ne guadagnavano 12-15 mila lire, cioè guadagnavano 5 volte tanto, in media, a credere, diciamo, poi per riscontri sui soldi, sempre da dubitare che dicesse la verità. Ma, e non solo guadagnavano poco, ma erano costretti a trascorrere molti anni senza stipendio fisso, in un lavoro in cui prevedono gli aspetti amministrativi e burocratici. Il fatto è che intorno a loro tutto stava mutando. Proprio questo mutare della realtà della funzione intorno a loro, secondo me, rende tanto gravosa l'essere costrette a passare il proprio tempo a livellare gli argini, misurare gli argini, a fare rilievi, seguire le parti, verificare che i sassolini degli adattatori fossero quelli giusti, no? Perché invece fuori stava fermentando qualcos'altro, un qualcos'altro, un'evoluzione che non passava più però per le campagne, a cui questi ingegneri in qualche modo erano invece legati per esperienze di lavoro, perché in qualche modo era preso, come aveva intuito, forse proprio per la trama di guadagno che gli veniva rinfacciata a Carlo Barrera, da un altro versante, del versante della tecnologia, del versante dell'industria. In questo senso, per richiamarmi ancora a Quadracuzzi, mi pare doveroso chiudere la relazione come ha chiamato sul profilo di quello che è un po' l'attore nascosto di questa compagnia di uomini che io ho esemplificato in Barrera e che mi sembra che è Carlo Cattani, e che pure ingegnere non era, e che mi pare un ideale raccordo tra uomini come Antonio Bruschetti e quelli invece della generazione di Brioschi e Gomini. E così io avrei concluso. Grazie. Pare che la decisione di Migranti di studiare la situazione, la sua relazione sia stata veramente felice, perché in quel modo abbiamo avuto un perfetto controcanto, così dire, a quanto ha detto Gigi, da un lato, cioè il robusto quadro generale, la ricostruzione delle iniziative politiche istituzionali, dall'altro invece indagini storiche basate sulle vicende concrete, sulle vicende quotidiane degli uomini che si chiamano ingegneri, diciamo, tutti voi, e sui loro, basati sull'esame dei loro percorsi e